Ci spostiamo adesso su invece su un argomento che come dire, non so come la vivete voi. Io posso dire che quando si parla di Palestina, per me, no, le due sensazioni chiave, al di là, no, delle analisi politiche che si possono fare sull'attualità, sono un'enorme rabbia, un'enorme impotenza che mi sento sulla pelle. E però, diciamo, no, al di là di queste mie sensazioni, il punto, no, è anche, come dire, è il fatto, è l'enorme isolamento, no? Quindi qui volevo, no, spostarmi al tema del diciamo di Gaza, che già era sostanzialmente stata trasformata già da decenni in una, no, prigione a cielo aperto, confinata e murata dallo Stato di Israele, e che sostanzialmente vede, no, ha avuto, con ormai l'attuale genocidio in corso, un isolamento completo e un attacco enorme all'informazione, che chiama in causa anche gli aspetti tecnologici. Infatti, come dire, no, non penso che sia la cosa più incredibile, più atroce delle tante commesse dall'esercito israeliano negli ultimi anni, ma sicuramente io penso che vada registrato. E forse non è altrettanto noto che una delle prime cose che l'esercito israeliano ha fatto dopo aver attaccato, no, enormemente il 7 ottobre 2023 e da lì in poi, sostanzialmente senza realisticamente mai fermarsi mai, se non per minime tregue, è stato un attacco forte anche alle telecomunicazioni. E questo, diciamo, quindi ci tocca più da vicino, no? Come persone che di telematica comunque sono sempre interessate. E quindi arriviamo a parlare di Gaza Web. Parliamo di Gaza Web, che, diciamo, in qualche modo è, no, un progetto, ma raccontacelo meglio tu, che cerca di intervenire su questo piano, che si può percepire come meno urgente, per esempio, del piano degli aiuti in termini alimentari e del piano della sanità, e senz'altro per certi versi lo è, ma non è nemmeno un piano opzionale, no? Come forse è un po' facile percepirla, no? Cioè, rispetto a delle notizie incredibili che ci raccontano di un numero, no, di morti in mano, un attentato alla a tutto quanto, no, quella che può essere la vita in quella zona del mondo, può sembrare, no, che tutto sommato la telematica sia l'ultimo dei problemi. Forse non è così, invece. No, non è così, perché allora il nostro approccio, vabbè, come dicevi, diciamo dal 7-8 ottobre Israele ha cominciato a bombardare. Tra le prime cose che ha distrutto sono state tutte le infrastrutture, tra cui, e forse prima delle altre, le infrastrutture tecnologiche, quindi tutte le dorsali di rete, i punti di accesso ad internet e così via. Dalle statistiche del traffico di rete si vede che dal 7 ottobre c'è un crollo, e quello che non è un piano opzionale, noi l'abbiamo considerato da subito in questi termini. Non è tanto il problema di far uscire le informazioni da Gaza, i video da Gaza, perché quelli, bene o male, le persone si sono organizzate, appunto c'erano i vari giornalisti che pure hanno pagato un prezzo pesantissimo, però erano organizzati appositamente per quello. Ma noi ci siamo preoccupati principalmente delle persone, delle comunità all'interno dei luoghi, perché lì il punto era che in quella situazione non avere internet significava magari non avere notizie del proprio parente, cugino, sorella, marito, figlia, che magari stava a 20 chilometri di distanza o anche a 2 chilometri di distanza e non ci si poteva spostare. E quindi, insomma, riuscire a dare connettività a queste persone significa tuttora, perché la situazione non è cambiata, anzi è peggiorata, significa tuttora mantenere viva una comunità riuscire a far mantenere delle relazioni umane attraverso la comunicazione. Quindi, diciamo, questo è stato quello che ci ha mosso principalmente, più che l'aspetto diciamo di far uscire le informazioni, ecco. Sì. E ora, e quindi, no, diciamo, io qui di Gaza Web, come dire, è giusto che se ne continui a parlare, mi sembrava, io volevo dare, no, anche un taglio, perché ovviamente c'è già un taglio legato a questa trasmissione, ma avrei voluto ancora calcare un po' di più la mano, e quindi no, io volevo fare un po' un'osservazione su questo piano, che come tu dicevi, una parte importante delle comunicazioni sono le comunicazioni in realtà interne al territorio. Questa è una cosa che abbiamo sempre detto in generale, e naturalmente è non smette di essere vera nei casi, diciamo, di crisi, se così la possiamo chiamare, che c'è a Gaza. Quindi a me, no, mi interroga molto, penso che come persona interessata alla tecnologia, a dei modi orizzontali di fare la tecnologia, penso che ci dovrebbe interessare molto il fatto di osservare, cioè, da un certo punto di vista si poteva dire che se tanto a te interessa comunicare con le persone dentro al territorio della striscia di Gaza, il fatto che Israele abbia tagliato i collegamenti con l'esterno in fondo non era il problema principale. Poi, vabbè, nel senso, Israele non è che ha soltanto tagliato i collegamenti con l'esterno, ha bombardato a tappeto, quindi, esatto, quindi anche quelli interni sono state anche le infrastrutture interne. Tuttavia va detto che verosimilmente, no, immaginiamo, facciamo il conto, no, come dire, adesso spostiamoci per un secondo da Gaza e pensiamo tipo all'Italia, immaginiamo, no, che a un certo punto qualcuno si mette in testa di tagliare tutte quante le dorsali internet, no, dell'Italia. Ora, quante parti delle vostre comunicazioni interne all'Italia voi pensate che ancora funzioneranno il giorno dopo? Io credo molto poche. Molto poche. Ma molto certo, poche. Certo. Penso che non funziona tipo più niente, francamente. Comunque, se funziona qualcosa, hanno veramente delle cose sparute. E direi sicuramente non gli oggetti di maggioranza. Non ti funzionerà più WhatsApp, non ti funzionerà più Telegram. Non importa il fatto che abbiano i server interni, non è sufficiente il fatto che abbiano dei server, no, anche magari in Italia. Il DNS l'autenticazione, no? Esatto, una serie di autenticazione, certo, diciamo, puoi anche avere dei server interni, ma non funzionano, non sono pensate per funzionare separatamente. Le mail, secondo me, può essere una di quelle cose che forse regge, ma forse se non hai la mail con qualche servizio di big tech, certo, si intende. Però, diciamo, no, la realtà è che per avere comunicazioni locali, lo stato delle tecnologie digitali oggi è che devi essere connesso alla rete globale. E questo non soltanto, intendo dire, nelle cose, nelle attività che più comunemente le persone fanno, quindi dici sì, vabbè, di norma faccio così perché conviene, ma senz'altro potrei facilmente riadattarmi ad una situazione, diciamo, che è comunque sotto gli occhi di tutti, no? Per cui un conto è che tu mi vuoi convincere che io, per risparmiare un tot di CO2, allora non dovrei più utilizzare i servizi di Big Tech, e questo a me mi convinci, ma chissà quanti altri non ne convinci. Però invece, diciamo, no, quando le situazioni sono effettivamente drammatiche, uno dovrebbe dire, beh, ma questo convince chiunque, quindi non è il problema, no, della volontà, tipo, vabbè, ma io preferisco usare quell'altra piattaforma che funziona e quindi non me ne frega niente. La realtà è che, no, mi sembra che concretamente una serie di tecnologie che, devo dire, anche, no, nei nostri ambiti, anche a me interessano molto e che mi sembrano molto promettenti, che hanno delle possibilità di orizzontalità, che possono essere, ne so, le varie reti mesh, no, i sistemi di comunicazione peer-to-peer, che di principio sono sistemi che, no, ti dicono questa roba qui funziona in questa maniera, no? L'esempio che ti fanno è tipo, vai in montagna, in una casa in montagna con altri 15 amici, no, e state tutti quanti in giro, no, per i sentieri, non vi prende internet, magari perché è un po' sperduto, ma tra voi continuate a chiacchierare perché i sistemi, no, funzionano sulle reti locali. Quando, diciamo, ci si è confrontati con il piano, perché adesso stiamo raccontando, ma si capisce che molte delle cose che vi raccontiamo qui abbiamo più cappelli in testa, no? Quindi, diciamo, penso che l'abbiano capito un po'. Sono temi con cui ci siamo confrontati non solamente leggendo ciò che si veniva fatto. Queste soluzioni non erano pronte, diciamo, non c'era della roba che realisticamente si poteva pensare di proporre alla popolazione della striscia di Gaza, dicendo passate ad usare un sistema peer-to-peer, così funziona. questo non c'era in questo momento. Quindi diciamo, se magari siete chiesti, se magari sostenete, no, che cioè, sì, dovrebbe, i sistemi orizzontali, la gestione delle comunità dovrebbero, sono promettenti, dovrebbero funzionare, magari è anche un momento per, che ne so, magari per studiare l'argomento, per confrontarvi, per iniziare magari a praticarlo, no, e scoprirne le potenzialità, portarli avanti e anche soltanto, no, magari conoscerli meglio. Però ecco, diciamo, alla fine, per quanto riguardava una situazione che andava risolta nell'immediato e non aspettando 10 anni, l'approccio che ha dovuto seguire GazaWeb è stato un approccio in realtà molto diverso, cioè quello di affidarsi comunque a dei sistemi telematici verticali, aziendali, nemmeno potendo scegliere, no? Perché uno potrebbe dire, vabbè, noi siamo un sistema che tecnicamente è gerarchico ed è verticale, ma io mi affido ad una ditta che ha, no, delle policy etiche, che magari è gestita dalle persone, non ti dico proprio vicine, ma che sono nemmeno, no, proprio il peggio del peggio, ma in realtà non si poteva scegliere nemmeno questo. Ci vuoi raccontarcelo? Sì, allora, per dare una mano alle ragazzine a continuare a studiare, alle persone, come diceva Graffio, a sapere come sta lo zio, la zia, la madre, anche a distanza di chilometri, e quindi portare questa connettività internamente all'area devastata di Gaza, purtroppo ci siamo dovuti affidare alle SIM elettroniche, alle SIM, e a telefoni cellulari molto costosi che possono funzionare con le SIM. Ci ricordiamo che a Gaza ovviamente non entra e non esce nulla, c'è un mercato nero ovviamente, quindi gli sciacalli proliferano in queste situazioni, e questi telefoni cellulari che sono costosi di per sé, questi smartphone per le SIM sono ancora più costosi. Quindi noi abbiamo fatto una raccolta fondi per comprarne alcuni che sono utilizzati da alcune persone, alcuni palestinesi che stanno a Gaza, che chiamiamo i giardinieri della rete, che sono con questi smartphone che leggono le SIM, possono fare da hotspot, cioè loro prendono il segnale della compagnia, penso egiziana. Nella zona sud di Gaza, da una o due compagnie egiziane, a nord da una compagnia israeliana, una compagnia telefonica israeliana. Perché allora praticamente le SIM è E-SIM, cioè electronic SIM. Che uno dice la SIM è già elettronica, no? Sì, è smaterializzata, non c'è il cartoncino, è un QR code che puoi prendere. E immaginate che in certi punti occasionalmente con questi telefoni, con la SIM normale, riescano a prendere per un attimo la rete. Lì si possono scaricare un QR code che noi gli abbiamo mandato, che abbiamo comprato, e scansionando quel QR code acquisiscono quegli smartphone la SIM elettronica, cioè che non esiste, smaterializzata. Che sostanzialmente, no, diciamo, la SIM, pensiamo alla SIM normale, no? Quindi quel cartoncino, no, piccolino, che ha un cippino a vista. Quella SIM lì, di fatto, non so, vi siete mai chiesto perché ce l'avete, no? Cioè, perché il telefono in realtà fa già tutto. Quella SIM lì è la prova della vostra identità, diciamo, no? Quindi è quella cosa che voi, quando vi collegate alla rete cellulare, cioè sapete che voi vi potete collegare alla rete cellulare anche senza SIM, e se non sbaglio potete comunque fare le chiamate di emergenza, sì. E potete comunque ricevere tipo i messaggi di emergenza, cioè tipo quelli che ti mandano in caso di terremoto o la prova dell'esercitazione, oppure quando non so se è morto il Papa lì, che è arrivato il messaggio a tutti quanti, forse quello ti sarebbe arrivato lo stesso. Non lo so, può darsi, non lo escludo, non lo so. Però diciamo, no, quindi quella invece, la SIM vi dà il fatto, vi collega al vostro numero, quindi diciamo vi autentica su questa rete. Invece la eSIM sostanzialmente è come se fosse un programma, di fatto, è, no? È software, infatti telefono... In effetti, alla fine pensate, cioè, ogni quando voi vi collegate col vostro account, che sia della vostra email, che l'account del vostro social network, voi mica comprate un hardware apposito con la SIM di Facebook. La SIM in effetti è un caso un po' particolare, in cui, no, uno ci si autentica avendo il chip giusto in mano. In realtà è un caso. La eSIM è la versione nuova, però attualmente supportata solamente dai telefoni più moderni, e quindi per questo più costosi, come diceva prima. Eh sì, Beh, infatti a questo proposito vogliamo anche ricordarvi che noi queste palestinesi che stanno a Gaza e che fanno da alberi della rete gli diamo anche uno stipendio, perché comunque lì c'hanno, cioè appunto c'è il mercato nero. Spiegaci perché. Perché c'è il mercato nero e qualcosa riescono a comprare per la sussistenza propria della propria famiglia. E parliamo dei palestinesi che sono rimasti a Gaza, cioè palestinesi dentro Gaza, e che hanno, alcuni hanno anche scelto, cioè stanno cercando di continuare a restare là, sebbene vengono scacciati a destra e manca e bombardati. E, quindi noi gli mandiamo dei soldi, ma, questi, ma c'è bisogno continuamente di questi soldi, quindi donate agli alberi della rete, il progetto... Come si fa? Come si fa? Allora, si fa andando su aiutagazaweb.vado.li e si atterra su un sito di produzioni dal basso, che è lo stesso dove potete sottoscrivere per aiutare Radio Onda Rossa, e lì potete sottoscrivere. Volevo fare però un passo indietro, perché allora come funziona, qual è il meccanismo? Perché prima lei diceva, Macchina diceva, questi giardinieri prendono prendono le SIM, vanno con lo smartphone in un luogo pubblico e attivano l'hotspot, e quindi diventano provider per le persone che si trovano nelle vicinanze. Quindi allora il meccanismo qual è? Chiaramente loro, siccome ci sono stati anche casi in cui l'esercito israeliano ha preso di mira bombardando, colpendo punti d'accesso internet in strada, quindi l'ingegno di queste persone è stato quello di mettere lo smartphone con un power bank all'interno di un secchiello, poi con una carrucola tirare su il secchiello in un punto alto, probabilmente sopra al tetto di un palazzo, affinché fosse irradiasse una zona più ampia. Quindi diciamo che queste persone si dedicano a noi, per questo gli alberi della rete, perché sono dei pali che stanno in alto, e per questo i giardinieri sono quelli che coltivano gli alberi della rete. Certo. Quindi sono persone che, diciamo, per poter fare questa cosa si dedicano quasi tutto il giorno, perché comunque devono andare in questo posto, dare gli appuntamenti, e quindi sicuramente queste sono persone che non possono, cioè se fanno questo non possono sbattersi e lottare per un pezzo di pane per sé, per le proprie famiglie, figlie, figli e compagnia cantando. Ed è per questo che il progetto GazaWeb nel suo insieme, come diceva prima Macchina, ha bisogno di aiuto non tanto e non solo per l'acquisto delle SIM, ma anche per sostenere i giardinieri, i quali... Sembra di capire che le SIM non sono una parte enorme del totale delle spese, cioè il problema è che la vita a Gaza diventerà insostenibile, quindi tu la SIM magari la compri da dei prezzi di mercato esterni da Gaza, e quindi magari non ha dei prezzi incredibilmente alti, mentre esatto, la vita dentro Gaza è ormai diventata un inferno, e di conseguenza insomma, mantenersi è molto costoso. Quindi se vuoi fare in modo che queste persone abbiano qualcosa da mangiare, questo c'è soltanto nel mercato nero, e questo ha dei prezzi sempre più grandi. Ha dei prezzi sempre più alti, e comunque richiede del tempo, e quindi se il tempo lo dedicano ad andare a sbattersi per trovare da mangiare, non possono fare i giardinieri della rete. E quindi per questo torniamo al discorso di aiutagazaweb.vado.li e sottoscrivete, insomma. Poi questo è, no, è la questione di fondo. E va bene, ok. mi ero mutato da solo. Io direi che possiamo andare ad un altro stacco musicale, ma magari molto breve. Dopodiché potevamo, anzi no, scusami, no, c'era, ecco, l'ultima notizia che volevo dare, e poi magari possiamo anche andare a concludere questa puntata. Era proprio in tema di Palestina, perché un po' di tempo fa, potrebbe essere circa un mese fa, se non mi ricordo male, avevamo raccontato alla Dita nella Presa di come la maggior parte, anzi tutte quante le grandi aziende della Big Tech hanno dei contratti in corso con lo Stato israeliano, in molti casi direttamente con l'esercito, ma tanto lo Stato israeliano non si capisce la differenza tra l'esercito e il non esercito, francamente, e quindi diciamo di fatto collaborano con il genocidio in corso in maniere più o meno dirette, e questo in molti casi è stato contestato dalle persone che lavorano dentro queste grandi aziende, che per anni hanno cercato di promuoversi come dei posti in cui lavorare fosse un sogno. Dopo un po' si è capito che sì, per carità, di soldi ne girano parecchi, ma per il resto diciamo che hanno, come dire, la sindacalizzazione è bastonata sempre. Parlare di Palestina dentro questi posti è assolutamente proibito, quindi non lo so, avranno anche il tavolo da ping pong nel posto di lavoro. Anche il biliardino, Anche il biliardino, ma questo ne li rende più simile ad un oratorio che ad un posto da sogno. Poi non so, magari le persone ce lo racconteranno, ma quello che ci arriva da questi ambienti sono proprio degli ambienti in cui tutto quanto il racconto che si facevano su questa nuova onda delle grandi aziende, che era profondamente con una cultura diversa, no? Con questa cultura yuppie, quindi anche, diciamo, tutto quanto un po' più alla leggera, era, diciamo, puramente marketing, e questi posti sono comunque dei posti in cui il mobbing al lavoro è la norma, in cui la censura al lavoro è la norma, e le politiche antisindacali sono la norma. In cui hanno fatto soldi perché finanziati dall'esercito e dai servizi segreti statunitensi principalmente, perché insomma questa cosa, pure questa finta del liberismo, è ora di dirlo, certo. questi sono diventati quello che sono diventato perché sono stati finanziati dallo Stato americano, in particolare da tutto l'apparato militare e di spionaggio, insomma. Quindi, certo. Sicuramente senza la protezione, quindi la idea del finanziamento, proprio della protezione dello Stato, degli Stati Uniti, non andavano altrettanto lontano. Molte, diciamo, queste politiche sono state contestate, no? La campagna No Tech for Apartheid nasce da dipendenti di queste ditte, non soltanto, ma anche da dipendenti di queste ditte. Microsoft, ad esempio, è stata contestata durante il suo, non lo so, qualche festa, tipo facevano l'anniversario, sì, 30 anni, 40 anni forse. Forse facevano 40 anni, comunque era all'interno di un, sì, mi sa che facevano 40 anni, ma all'interno dell'evento annuale di festeggiamento della Microsoft, diciamo. Quindi queste persone... cinquantesimo addirittura, e se la Microsoft è vecchia, sai questo cosa significa? Che siamo vecchi pure noi. Faceva 50 anni. Parlate per voi. Sì, ma io infatti ho detto io. Dicevo, quindi sono stati contestati. Microsoft se l'è cavata con una politica apparentemente sobria, cioè di fatto non ha interrotto le contestazioni immediatamente, non ha fatto intervenire la security, diciamo, ha fatto aspettare che l'intervento di contestazione avvenisse, dopodiché ha gentilmente portato la persona via, che poi ha potuto andare a casa e scoprire che non aveva più un account della sua ditta, perché era stata licenziata in nemmeno il tempo di finire la conferenza, senza neanche una lettera né una mail, che d'altra parte non poteva più leggere poiché non aveva più l'account. Ma in quel caso ti mandano un'email su uno di Google. Ah, certo. Fatto sta che diciamo, uno potrebbe dire, beh, però quella sarà proprio una contestazione esplicita, ma questa non è la stessa cosa della censura, perché un conto è dire non si può dibattere di una cosa, e un conto è dire che tu non puoi interrompere una presentazione ufficiale, che sono due cose diverse. Non lo so, fatto sta che Microsoft è tornata a dei filtri sul contenuto, devo dire alla faccia dell'intelligenza artificiale. Cioè, magari voi vi ricordate di un tempo in cui, siccome fare le regole sofisticate sul contenuto era complicato, ai tempi dell'amministrazione Bush figlio, no? Fecero la lista delle parole che non si potevano dire. È vero. C'era un centinaio di parole che ti rendevano immediatamente, diciamo, perché era vietato dirle, ma immediatamente poi ti facevano oggetto di una maggiore approfondimento, no? Diciamo, giustificavano un'investigazione. Per cui, tipo, se tu dicevi bomba, se tu dicevi aereo, se tu dicevi una serie di parole, poi dopo eri giustificato. E diciamo, il sistema era ovviamente scemo, ma bisogna dire che, come dire, se proprio volevi fare una roba del genere, non la potevi fare meglio. Cioè, o dicevi lascio perdere, oppure al tempo la potevi soltanto fare basando su questi sistemi. Ora uno penserebbe che Microsoft, OpenAI, tutta sta storia delle AI, ma la puoi fare senz'altro, no? Una roba che mi distingue da dei discorsi, che ne so, che siano di incitamento all'odio, distinguendo da quelli in cui si dibatte un tema. Poi magari non funziona, no? Però astrattamente se mi racconti che funziona, allora ci dovresti almeno provare, no? Quindi di differenziare, no, tra cose diverse. Però invece la loro policy interna è quella di bloccare tutti quanti i messaggi che contengono una di queste tre parole, che siano la parola Palestina, la parola Gaza o addirittura la parola genocidio, tutta intera, quindi che si applica evidentemente comunque a qualsiasi altro genocidio in corso. E così, diciamo, questo è il livello di dibattito interno che queste aziende facilitano. Io, questo insomma mi ha fatto riflettere, oltre al livello di censura altissimo, perché insomma addirittura bloccare le mail che contengono queste parole è una roba alta proprio, sì. Diciamo come. Ma mi ha fatto di nuovo riflettere sulla questione che mi pare è stata affrontata nella scorsa puntata, della questione della criptazione end-to-end. Ce ne sono tante, se ne può dire di cotte e di crude, ma qui siamo a un livello per cui le mail sono assolutamente in chiaro, tanto che arrivano sul server in chiaro, c'è un software che gira. Mail interna aziendale, per certi versi è pur normale che sia così. Sì. Non particolarmente tu dici sorprendente. Dici che Outlook... No, non particolarmente sorprendente. Sì, forse sono io che l'ho esteso anche a tutto Outlook.com, che secondo me funziona così. Ma sicuramente comunque così, però diciamo il fatto che sono comunque queste sono le mail interne, quindi sì. È un po' diverso. Tra l'altro notare che il blocco, perché uno potrebbe dire, vabbè, ma perché no, mi stai insinuando che il blocco sia fatto in questa maniera così grezza e non che sia un blocco raffinato, che però poi magari no, praticamente coincide. Beh, perché ad esempio il termine Israele non fa scattare un blocco, perché altrimenti come fai poi a parlare della commessa che gli devi fare a Israele? Certo. E nemmeno scrivere Palestina con il 4 al posto della I, che diciamo, testimonia la semplicità della questione. E io su questo, sicuramente mi volevo togliere un sassolino sulla scarpa, però anche chiedere un po' cosa ne pensate, perché io devo dire che sono... che capisco, ma sono allo stesso tempo in difficoltà, o almeno, nel senso, vorrei elaborare, ecco, mi piacerebbe che ci fosse un po' un'elaborazione, che non ho capito se c'è, sull'uso che viene fatto dell'icona dell'anguria, no? Che, o del cocomero, non ho ancora capito come qualcosa lì, come si chiama, quale modo meno ambiguo per parlare dell'anguria. O anche cocomero. O cocomero, per chi lo chiama cocomero, no, nel senso, in riferimento alla Palestina. Nel senso, mi sembra, a me sembra che quel simbolo che è stato utilizzato, no, perché diciamo, perché usare la parola Palestina o usare la bandiera della Palestina in molti contesti è bloccato, e invece l'anguria ha gli stessi colori, ovviamente in una forma diversa, e in questo modo passa questo messaggio. E a me sembra molto interessante, perché comunque è un simbolo effettivamente della situazione che stiamo vivendo, in un certo senso è davvero evocativo, ma mi sembra che sia anche un simbolo, diciamo, della forte censura a cui il movimento in solidarietà alla popolazione palestinese è costretto, e alla sua difficoltà di far valere dei rapporti di forza che vadano oltre, no, il sotterfugio. Cioè, a volte mi chiedo se quella roba lì è il simbolo della nostra difficoltà o è il simbolo della nostra furbizia, no? Nel cercare di portare comunque, no? Di veicolare questi messaggi. Ma sicuramente il simbolo del fatto che questi messaggi stanno tutte su piattaforme proprietarie che sono in mano ai puzzoni mangiamorte tecnobrulicarchi che sono causa di questo genocidio anche loro in corso. Cioè, se noi discutiamo sui loro spazi, è chiaro che fanno la censura che gli pare. cioè, ricordiamoci che servono il simbolo, cioè il cocomero, l'immagine del cocomero serve su Instagram, su TikTok, su Facebook, non è che nella chat tra me e te. Beh, però è utilizzata anche fuori, no? Sì, perché poi per estensione. Secondo me, ovviamente è una cosa che penso adesso e dico adesso, però secondo me nasce su queste certo, piattaforme, certo, nasce perché da quello. È lì dove è il problema. Ma certo, siamo a casa dei mangiaporte su sociopatici, sì, di merda, cioè. Sì, no certo, e, nel senso, mi sembra proprio, nel senso, come dire, sì, no, mi chiedo, ecco, no, quanto il fatto che quella roba lì è comunque la condizione, per certi versi è una condizione generale, ma è la condizione anche di un ambiente specifico, no, quella in cui ci viene a trovare, nel senso che la censura esiste sempre, la repressione esiste sempre, ma il livello di censura che quelle piattaforme possono attuare è comunque superiore a quello che incontriamo nel resto della nostra quotidianità. Vabbè, cioè, se mettiamo una volante in manifesto in giro, non è che non te lo staccheranno mai, però non è nemmeno che c'è un livello, no, una difficoltà nell'agibilità così alta, no, come c'è su quelle piattaforme. Invece magari ci si convince, no, che quel mondo lì poi diventa tutto. Non so. Sì. Cioè, per estensione, sì. È anche vero che un po' se stiamo tutti quanti là, un po' diventa tutto. Cioè, se il mio strumento di comunicazione, di denuncia delle cose e di diffusione delle cose che mi accadono è soltanto nelle mani di dei broligarchi che hanno la loro agenda, che prevede che c'è una guerra ai poveri e alle donne e che dobbiamo scomparire tutti perché devono andare su Marte, cioè è chiaro che se io sto solo lì, per estensione sono io stessa che rendo il mondo solo loro. Cioè, come dire, dovremmo disertarle questi spazi, che non vuol dire abbandonare la lotta, vuol dire disertare quel campo di battaglia, perché ci devono morire loro dentro gonfi e noi dobbiamo andare da un'altra parte, scusate per i francesismi. Beh, io direi che con questi francesismi non so se, no, forse sì, volevi aggiungere qualcosa. Volevo solo dire che sarà anche così, che diciamo il fatto che si debba usare l'anguria al posto di Palestina è sicuramente un segno del fortissimo livello di censura. Devo dire però che ho sentito intonare un coro dagli studenti medi: Meloni no, anguria sì, che decisamente mi è piaciuto. Certo, con questa nota, quindi persino positiva, noi andiamo a chiudere questa puntata delle dita nella presa, una puntata che non sappiamo quando l'ascolterete, il 25 maggio, il 2 giugno, un gennaio del 2032, riflettendo su quello che è successo altri anni fa, noi non lo sappiamo, ma in ogni caso vi ringraziamo per averci ascoltato, vi ringraziamo soprattutto se ci avete ascoltate private della propria della vostra libertà personale, e vi invitiamo ancora ad ascoltare e a sostenere Radio Onda Rossa. Ciao ciao!